Allora, la giornata dell'8 marzo, come siamo detti, è uno sciopero femminista, quindi non è solo uno sciopero dal lavoro produttivo, e quindi nulla di meno ha fatto tutto un ragionamento su come si sciopera da tutti quegli altri meccanismi che comunque producono valore, che comunque portano avanti quello che è il ragionamento sistemico patriarcale, capitalista e razzista, cioè appunto della nostra società. E quindi anche gli studenti e le studentesse in particolare, proprio perché vivono tutti i giorni quelli che sono i luoghi della formazione, un luogo cruciale di riproduzione del patriarcato, del discorso patriarcale, in quella giornata saranno presenti e porteranno le proprie istanze anche come pratica femminista insegna a partire dal proprio quotidiano. Infatti, appunto, come studentesse e studenti, chiaramente parteciperemo a quello che è uno sciopero femminista, che appunto supera anche quella che è l'analisi di sciopero produttivo e riesce a intersecare quelli che sono altri aspetti che comunque producono valore all'interno della nostra società, riproducono quella che è la società intera, e che come studentesse e studenti, come pratica femminista insegna, non possiamo che non partire dal nostro quotidiano, e quindi dalle nostre aule, dai luoghi della formazione, dove innanzitutto sono appunto luogo cruciale della riproduzione del patriarcato, ma soprattutto sono luogo dove si vivono tutte quelle dinamiche che ci sono anche fuori. Infatti, come studentesse, ma non solo, come ricercatrice precari, come docenti, come personale, come tutte quelle soggettività che vivono in luoghi della formazione, ci vediamo in Piazza Verdi, dove come collettivo Maleducazione, di cui faccio parte, e altri collettivi studenteschi, abbiamo chiamato questo preconcentramento universitario Piazza Verdi, che è il luogo simbolo un po' anche di quelle che sono le retoriche contro il degrado, contro le studentesse e contro gli studenti, e che invece vogliamo riappropriarci in quella giornata per risignificare, con appunto un preconcentramento in cui si tratterà in particolare appunto delle tematiche relative all'università e quindi al sapere patriarcale che viene instillato, che viene prodotto anche all'interno dell'università, delle dinamiche che tutti i giorni da studentesse e studenti viviamo, perché appunto non è il giardino d'oro all'interno di un mondo di merda, ma appunto l'università è proprio uno dei luoghi dove in prima persona si vivono quelle che sono dinamiche che fuori dall'università poi avranno tutte dinamiche più strutturate. In particolare poi le studentesse e gli studenti della scuola, insieme alle docenti, che si è creato proprio un gruppo scuola che ragiona all'interno di quelli che sono gli istituti primari dell'istruzione, stanno facendo un percorso che, insieme alla costruzione di opuscole, insieme all'incontrarsi alle assemblee con tantissime studentesse e docenti, stanno ragionando su come far ripartire la resistenza a tutti quelli che sono gli attacchi non gender, proprio a partire dalle scuole. Appunto, questo gruppo scuola è da mesi ormai che si incontra e prova a ragionare di come far partecipare il pezzo della scuola e della formazione allo sciopero femminile. In particolare si troverà in piazza in uno di quelli che sono gli angoli appunto tematici all'interno del presidio femminista della mattina delle 8:30 in piazza del Nettuno, dove porterà proprio la scuola in piazza per riuscire a fare innanzitutto autinchiesta rispetto a una serie di situazioni che si vivono, e poi per cercare di appunto costruire un'alternativa e una resistenza anche a partire da quei luoghi della formazione lì. E in particolare sarà organizzata anche qualche evento proprio in piazza in questo senso? Sì, infatti appunto il gruppo scuola ha immaginato di costruire questa gazebo, questa finta scuola che si porterà in piazza per riuscire innanzitutto a catalizzare quelle che sono gli interessi e le sensibilità di docenti e docenti che parteciperanno allo sciopero, e che proverà a fare appunto autinchiesta, proverà a costruire un laboratorio anche di costruzione di pratiche di resistenza all'interno del mondo della formazione e di ragionamento rispetto ai punti cardine che si sono identificati come i veri attacchi a quello che è la libertà di insegnamento all'interno delle scuole, come appunto il consenso informato o appunto gli attacchi dei cattofascisti con i famosi no gender, eccetera eccetera. Chiaramente vi aspettiamo tutti quanti in piazza per riuscire a costruire insieme questo percorso e riuscire a andare anche oltre quella che è la giornata dello sciopero, perché come non almeno dice, lo sciopero è un processo. L'8 marzo iniziamo solo a fare quella che è il nostro percorso di resistenza. Invece, tornando al presidio in Piazza Verdi, che si terrà poi nel pomeriggio dopo il pranzo, per la stessa giornata è stato chiamato anche un presidio di Fratelli d'Italia, e quindi volevo chiederti se voi avete aggiornamenti in questo senso e come vi porrete rispetto a questa cosa. Allora sì, c'è stata questa palese provocazione proprio nella giornata dell'8 marzo, non è il primo anno che succede, da parte appunto delle frange cattofasciste italiane, che ancora una volta provano a strumentalizzare con la retorica, la finta retorica del degrado, quella che è una piazza che vive di contraddizioni, ma che è proprio quel giorno invece noi vogliamo risignificare. Quindi il presidio di Fratelli d'Italia in Piazza Verdi assolutamente non ci sarà, non ci potrà essere, però noi non vogliamo appunto continuare a dare luce a quelli che sono poi veri e propri tentativi di strumentalizzare quella che sarà l'attenzione di quel giorno tutta sui temi dell'8 marzo, e quindi risignificheremo quella piazza con le tematiche dello sciopero. Non ci interessano queste provocazioni, non stiamo al gioco dei fascisti che ancora una volta strumentalizzano le rivendicazioni femministe a fini elettorali.